que sia impossibile. Però una volta che hai comprato ci sei stato, eri tornato e poi domani sarà stato un altro giorno sprecato. Mi compro un altro oggetto che prima o poi andrà buttato. Fermati, cerca di sorridere e guardare le tue lacrime, amico che ti tende la mano. Cosa di strano, siediti un attimo e poi alzati e guarda in su nel cielo e dimmi cosa vedrai. Luce, l'universo e le stelle sono parte di te, se vuoi capire il senso del perché noi siamo qui per migliorare il nostro destino. Luce è l'essenza della vita, della mente in te, un cuore che ribatte emozione ed è un sogno sempre felice.